Le 10.09, buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme, siete su CRM Happy Radio, è quella che vi sta parlando, la voce di Mary Catalano anche questa mattina con voi, con questo appuntamento che si chiama, per chi non lo sapesse, Déjà Vu. È da un po' di tempo che stiamo insieme, qualcuno dovrebbe già sapere bene di cosa si tratta, semplicemente di un programma che è prettamente dedicato alla musica che anche voi potete segnalare. Questa è la prima cosa. La cosa primordiale, diciamo, di questo programma, naturalmente. E poi c'è tutto il resto, le curiosità, le news, le vostre richieste, le vostre dediche, se volete. E allora usufruite dei nostri numerini, che sono sempre quelli, il 335-56-37251, il numero per gli sms. Poi naturalmente c'è anche il numero fisso, lo 0921 92 32 92. E poi c'è internet, il nostro sito internet, il www.crmepiradio.it. Da lì ci seguite in streaming, dovunque voi siate, e poi potete anche fare le vostre segnalazioni musicali anche lì, perché c'è proprio a portata di mano, anzi a portata d'occhio in questo caso, proprio il riquadro che riporta appunto la possibilità di fare le segnalazioni musicali, ok? È tutto pronto anche questa mattina, abbiamo appena cominciato, stamattina c'è anche il sole, è meglio di così, non poteva andare, e noi ci sentiamo. CRM Happy Radio. Deeper than the sea, How Deep Is Your Love, Sean Paul insieme a Kelly Rowland qui a CRM Happy Radio. Ancora ben trovati, siete all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno per questo giovedì del 2 di febbraio, un giovedì abbastanza assolato. Devo dire che qua non ci possiamo assolutamente lamentare, continuiamo sempre a essere super fortunati a dispetto di tutti quei posti in cui in questo momento sta nevicando. Naturalmente c'è chi ama la neve, chi nella neve trova la possibilità di sbizzarrirsi con gli sport appunto che si fanno in genere sulla neve, e allora saranno proprio felici del fatto che appunto ci sia questa possibilità con tutta questa neve che sta scendendo giù per l'Italia, no? Noi qui ancora sì, l'abbiamo la neve, però diciamo che si mantiene ancora ad alta quota e noi possiamo godere delle giornate così di sole, passeggiate, che ne so, a lungomare magari, ascoltando con la radiolina la musica che naturalmente vi propongo. E allora, a proposito di musica, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Arrivano già le prime segnalazioni da parte vostra al 335-56-37251. Questa volta è Mario che ci segnala il nuovo singolo per quanto riguarda Laura Pausini, che sentiamo subito. La canzone si chiama Bastava. Ancora buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di CRM Happy Radio. Un sorriso di ritorno per rispondere a un sorriso. Bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava nella stanza di un albergo d'Europa. Si potrebbe andare avanti a parlare, o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace. Vince il primo che si arrende, si offende, lo dice. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Una camminata in centro, in un pomeriggio bianco. Bastava prevedere il tuo fastidio, fare conti sopra l'odio. Bastava fare a meno delle buone maniere che confondono e rubano spazio e spessore, e buttarci sotto l'acqua gelata e accettare che davvero è acqua passata. Come ci siamo arrivati a voler tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Come ci siamo ridotti io e te. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa il meglio per sé. Tutto anche se è poco, quello che capisci dopo. Bastava masticare le parole, rimanere in verticale. Bastava, questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede povere carezze di guerra. Questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede lacrime d'argento cadere. Laura Pausini, richiesta da Mario al 335-56-37251 con questo singolo che si chiama Bastava, e c'è anche il nuovo video per questo omonimo singolo in cui litiga furiosamente con il suo uomo. Laura Pausini è molto molto scatenata in questo ultimo video e lei stessa dice: amo questo brano perché quella che canto è davvero la mia storia. Attualmente in questo momento Laura Pausini è impegnata con l'inedito World Tour. Arrivano i Litfiba qui a CRM Happy Radio, ancora musica italiana, dunque La mia valigia è il singolo che sentiamo. La mia valigia, casa tracolla, due occhi, due orecchie, due ruote, due zeta, sogni lontani, avanti dai, parlare e raccontare tutto quello che hai. Casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabili note e parole, rimedi del cuore, e vivere in viaggio è un atto d'amore. Litfiba sono ritornati molto energetici con questo singolo La mia valigia, sempre su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano che vi accompagnerà fino a mezzogiorno. Ancora ben trovati e buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto.

strappato di più. Non è mai qualcosa di esatto. Chi ha dato e poi chi ha preso tutto quel che c'era. Non conta più sapere chi ha ragione. Luciano Ligabue tra i più segnalati qui a CRM Happy Radio, e in questo caso con il nuovo singolo che è fra l'altro uno dei tre inediti inclusi nell'album Campovolo 2011. Non stupisce la scelta di questo singolo M'abituerò, perché quando nel 1993 Sopravvissuti e Sopravviventi uscì nei negozi, in molti rimasero un po' spiazzati. Il terzo album della carriera di Luciano Ligabue, infatti, pur mantenendo forti punti di contatto con Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, conteneva testi molto più intimi, pessimisti e personali. Il sound era molto scuro, più pesante e rock. Il disco però non ottenne i risultati sperati, ma diventò uno che dei più amati dai fan, e quindi non stupisce che sia stata scelta proprio questa canzone, M'abituerò, la canzone che abbiamo appena sentito, tra i tre inediti di Campovolo 2011, il triplo CD live uscito lo scorso 22 novembre con 32 brani e un booklet fotografico con le immagini catturate durante il concerto. Sicuramente saremo impegnati ad ascoltare questo singolo per un po' di settimane. Nel frattempo c'è un'altra cosa che ultimamente sentiamo spesso e che ci piace tanto, come del resto tutte le canzoni di The Coldplay. La canzone si chiama Charlie Brown. Ancora ben trovati e buon ascolto, siete su CRM Happy Radio all'interno del programma Insieme a Mary Catalano, ovvero Deja Vu, che vi ricordo va in replica la notte alle 2 circa, quindi nottambuli all'ascolto, un saluto anche a voi. Sentiamo questa splendida canzone Coldplay. Charlie Brown e Coldplay qui a CRM Happy Radio e parliamo degli Oscar. Mentre si fa alta l'attesa, il cast della serata degli Oscar va componendosi a suon di pezzi da 90. Dopo Jennifer Lopez, annunciata due giorni fa, anche Tom Cruise sarà tra i presentatori della serata condotta da Billy Crystal. Intanto si vanno delineando le quote degli scommettitori per i favoriti alla statuetta nelle diverse categorie. Tra gli attori, George Clooney, che è senza rivali praticamente. Tom Cruise ha alle spalle una storia importante con la statuetta dell'Academy, pur non avendola mai vinta però. Infatti è stato nominato 3 volte, però non l'ha mai avuta sua questa statuetta. La prima nel 1990 come miglior attore protagonista per Nato il 4 luglio, poi nel 1997 sempre come miglior attore protagonista per Jerry Maguire e infine nel 2000 come miglior attore non protagonista per Magnolia. Per la serata del 26 febbraio, quindi, un'altra presenza importante dopo quella di Jennifer Lopez, annunciata dai produttori della manifestazione, evidentemente è quella di Billy Crystal, per quanto storica, era una conduzione non ritenuta sufficientemente d'appeal per un'edizione dove anche sul fronte del film si è avuto qualche problema, tanto che non sono stati trovati nemmeno 10 titoli all'altezza dell'Oscar, ma ne sono stati nominati solo 9. Sul fronte dei favoriti, dunque, George Clooney, che non ha assolutamente nessun problema, mentre per quanto riguarda le donne, le attrici per la statuetta appunto che dovrebbe andare alle attrici migliori, si prospetta in testa la grande, strepitosa Meryl Streep, che interpreta Margaret Thatcher in The Iron Lady, e Viola Davis nel ruolo di Abilene Clark in The Help. Se gli scommettitori avessero ragione, si potrebbe comunque consolare qualcuno con la statuetta per miglior film, quello più visto praticamente, che sarebbe The Artist. E va bene, vedremo un po' cosa succederà quest'anno per quanto riguarda questo avvenimento importantissimo. Nel frattempo andiamo a sentire invece la musica nuova che sempre come al solito ci segnalate anche voi al 335-5637-251. Arriva Lil Wayne insieme a Bruno Mars, la canzone si chiama Mirror. Everything happening today, you don't know whether you're coming or gone, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. I see you're not satisfied, and I don't see nobody else. I see myself, I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again, yeah. Through my rise and fall, you've been my only friend, yeah. You told me that they can understand the man I am, so why are we here talking to each other again? I see the truth in your lies. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again, yeah. Through my talking to each other again. Looking at me now, I can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man and the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again, through my rise and fall. You've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? Lil Wayne ha voluto Bruno Mars nel suo nuovo singolo, il brano si intitola Mirror ed è contenuto nella deluxe edition di Da Carter 4, il disco pubblicato lo scorso agosto dal rapper di New Orleans. Si tratta senza dubbio di una collaborazione molto molto eccellente che riunisce il più grande rapper del momento con l'artista maschile rivelazione del 2011 che negli ultimi mesi si è mantenuto sempre nelle posizioni più alte delle classifiche in tutto il mondo. Lil Wayne è riuscito a vendere 2 milioni di copie del suo ultimo disco e questo risultato lo conferma come uno degli esponenti più noti della scena rap internazionale. Siete sempre su CRM Happy Radio, vi ricordo il 335-5637-251 per i vostri messaggi e non dimenticate che c'è anche il numero fisso, lo 0921-92-3292 e poi www.crmhappyradio.it, il nostro sito internet dove ci seguite in streaming davvero dovunque e da lì potete fare le vostre segnalazioni musicali, quindi non perdete Happy Radio. Thank you. All'interno di Deja Vu anche Cranberries con il nuovo singolo che si chiama Tomorrow. Un'ora già trascorsa insieme a me, siete sempre all'interno di Deja Vu. Vi ricordo che poi a mezzogiorno invece ci sarà l'appuntamento con Filippo Glorioso. Nel frattempo arrivano i Subsonica. Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo se tutti mi sbagliano. Radio. Ah, è tanto che cammini e non senti male ai piedi, ti seguo già da un po', guardi con due occhi neri e stanchi e non mi vedi e passi avanti, io ti seguo ancora per un l'avrebbe detto prima che io un giorno sarei andato dietro a te, come quando un uomo cerca di io, questa corsa non ha senso, se il senso l'ho già perso dietro te. Vorrei odiarti un po', senza nemmeno amarti, e vorrei amarti poi, senza nemmeno conoscerti. E intanto Londra brucia intorno a noi. Brucia, uccidi ogni sguardo su cui cadi. Io ti osservo già da un po' e ti perdi nei tuoi stessi occhi stanchi, e mi illudi e passi avanti. Forse aspetto un altro po'. Chi l'avrebbe detto prima che io avrei perso tempo dietro a te, come quando un uomo cerca Dio, non lo trova e più impazzisce. Io impazzisco se rimango ancora senza te. Vorrei odiarti un po', senza nemmeno amarti. Fermo tu che dici, non ci sei già. I Negramaro sono tornati con il nuovo singolo che si chiama Londra Brucia, estratto dall'album Casa 69. Il brano è uno dei più rappresentativi del loro ultimo disco, appunto del loro ultimo lavoro, tanto da portare la band a scegliere questa canzone per accompagnare le performance degli attori ospitati sul palco dell'ultimo tour nell'ambito dell'iniziativa Teatro 69 a sostegno del teatro italiano. Dopo aver segnato un sold out dopo l'altro nel corso dell'ultima tournée, a grande richiesta i Negramaro dunque torneranno live con 11 nuove date di Casa 69 Tour, che ripartirà il 30 aprile da Genova per poi toccare anche Roma dopo le 4 serate tutte esaurite dei mesi scorsi, e poi Caserta, Ancona, Livorno, Modena, l'Arena di Verona, Milano, Torino, Rimini e Taranto. Niente date siciliane, peccato. Ok, intanto noi ci gustiamo i singoli nuovi di Negramaro e quello che abbiamo sentito prima, appunto l'ultimo lavoro uscito qualche giorno fa, appunto Londra Brucia. Andiamo ad ascoltare la prossima canzone, e arriva Giorgia insieme a Eros Ramazzotti. Anche Eros Ramazzotti tornerà fra pochissimo con una cosa nuova, ve ne parlo fra poco, rimanete là. L'amore poi cos'è? Definizione, combinazione chimica o è fisica trazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni, non ci sono spiegazioni, e non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, nascondersi non serve, è questione sai di tempo. Ci sorprende prima o poi. Esigenza, forse la risposta è tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro. Giorgia, grande voce, e Eros Ramazzotti insieme per questo singolo Inevitabile. E a proposito di Eros Ramazzotti, si avvicina il giorno di San Valentino e lui ha pensato bene di fare una grande cosa, un grande regalo a tutti gli innamorati, ovvero una raccolta delle sue più belle canzoni d'amore. E già dal 31 gennaio infatti è disponibile nei negozi Eros Best Love Songs, la straordinaria collezione dei più famosi brani d'amore del repertorio del cantatore romano. E questa cosa include ben 32 successi di grande importanza, tra i quali Adesso Tu, Stella Gemella, Cose della Vita, e nel disco è presente anche il singolo che abbiamo appena sentito, Inevitabile, cantato appunto in duetto con Giorgia e incluso nell'ultimo disco della cantante stessa, Dietro le Apparenze. La raccolta è uscita in due versioni, quella standard 2 CD e deluxe 2 CD più un libretto di 32 pagine rilegato al libro. Insomma, un regalo straordinario per la festa di San Valentino. Non trovate? Io credo proprio che sia una bella... RM Happy Radio. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you between your heart and mine. say it best. Ronan Keating, CRM Happy Radio con When You Say Nothing At All, un grande successo, una grande colonna sonora che sicuramente tutti quanti ricorderete. Intanto Biagio Antonacci, sempre segnalato al 3355637251, questa volta da Lucia, che se salutiamo. Ieri tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me, le hai scritte tutte col blu, pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come, con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. E che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te. Tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti. Sentire sussurrare adesso che ti sono vicino, la tua voce mi arriva, suona come un'onda che mi porta al mare, ma che cosa di più. Iris, ti ho detto ti amo, e se questo ti piace rimani con me. Quanta vita, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita. Cause cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te? I sapori e gli umori, che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me? Iris, ti amo davvero, se questo ti piace rimani con me. Volevo ringraziare tutti quelli che fin qui stanno aiutandomi a compilare la playlist di questa mattina per quanto riguarda Deja Vu, l'appuntamento con Mary Catalano che va in onda il martedì e il giovedì con voi sino a mezzogiorno. Anche per quest'oggi naturalmente Deja Vu con tutta la musica più bella di questo momento ma anche del passato, come abbiamo potuto sentire fino a poc'anzi con la musica di Biagio Antonacci segnalata da Fabio con il singolo Iris. E invece adesso The Black Keys con Gold on the Ceiling, ritorniamo ai giorni nostri con la musica nuova. Happy Radio. I saw when you arrived looking like a supermodel. Your ass from the side looks just like a Coke bottle. I love the way you ride, put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like a movie in Jamaica. Pretend I am my dinner, she could be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker. Throw my hands up if you believe in me now. I keep my hands up. If I bring up my camera, will you be in my feature? Cause we gon' do some things, hope your daddy ain't a preacher. I wanna see you move like they move in Jamaica. Pretend I am my dinner, she could be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker, maker, maker, maker. Throw my hands up, if you believe in me now. I keep my hands up, and do it all for the now. And sing out, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. I love the way you dance, oh, it makes me crazy. I wanna see you move, so just let it go, baby. I feel like we can do this if you wanna go with it. Let's take it to the top, push it to the limit. Take it to the top, push it to the limit, to the limit, to the limit, to the limit, baby, baby. I throw my hands up if you believe in me now. I keep my head. Mancano soltanto 20 minuti a mezzogiorno, quando sarà la fine di questo appuntamento con Deja Vu insieme a Mary Catalano, che naturalmente poi lascerà la linea a Filippo Glorioso con il suo programma Carta e Penna. E quindi noi dobbiamo fare in modo, insomma, di trascorrere questi altri 20 minuti in maniera deliziosa. Che ne dite? Fra poco arriveranno anche gli U2, richiestissimi al 3355637251 da parte di Luciano, che ci segnala una canzone che è davvero magnifica, non per niente si chiama Magnificence, ok? Fra poco però, prima voglio raccontarvi di una cosa interessantissima che riguarda le star, le celebrità. Interessante perché? Perché al giorno d'oggi non è che tutti amano avere tanti bambini o comunque occuparsi di fare una famiglia numerosissima. Invece Angelina Jolie e Brad Pitt sì, loro sì che hanno una bella famiglia numerosa, e sembra proprio che Angelina Jolie sarebbe incinta di nuovo di due gemelli. La bella attrice 36enne e il compagno Brad Pitt, che all'attivo hanno già 6 figli, 3 adottati e 3 naturali, sono apparsi radiosi recentemente, e ciò non avrebbe solo a che fare con la nomination per il ruolo di lui in Moneyball ai prossimi Oscar, lo rivela una rivista di Spectaculaire, una rivista Glamour, che titola la notizia ancora gemelli. Secondo questa rivista di gossip, che già un paio di settimane fa aveva anticipato che Angelina era in dolce attesa, però diceva solo di un figlio, la notizia della nuova gravidanza dell'eroina di Tomb Raider è ufficiale adesso. Erano felicissimi per il fatto che Angie sia rimasta incinta così in fretta questa volta, e la fonte ha riferito proprio questo. Secondo loro ciò dimostra che questa gravidanza è un segno del destino, ha aggiunto. Insomma, praticamente ormai appurata questa cosa, per cui aspettiamo con ansia anche quest'altra nuova, appunto, quest'altro nuovo arrivo, se non sono due, perché si parla di gemelli, per cui vedremo. Intanto, come dicevamo prima, arrivano gli U2 e arrivano con questo singolo bellissimo, e ringraziamo ancora una volta Luciano che ce l'ha segnalato. Continuate a mandare le vostre segnalazioni, i vostri messaggi al 3355637251, e non dimenticate che al nostro sito, al www.crmpiradio.it, ci seguite in streaming, seguite anche le repliche dei vari programmi di CRM Happy Radio. Per quanto riguarda Deja Vu, la replica è alle 2 di notte, non perdetevela. E a proposito, nottamboli all'ascolto, un salutone grande anche a voi, e noi ci accingiamo ad ascoltare questa bellissima cosa per gli U2 su CRM Happy Radio.

lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what's your dream, wondering if it's me you'll see, yeah. Happy Radio. Maybe you do find as long as you Madonna, questo era il singolo nuovo per lei, Madonna, Give Me All Your Love, ed è anche la canzone che chiude l'appuntamento di Déjà Vu insieme a Mary Catalano con voi, naturalmente, il martedì e il giovedì, come succede in questo ultimo periodo, qui è così. Quindi noi ci ritroviamo qua martedì prossimo, sempre a partire dalle 10. Intanto fra poco l'appuntamento con Filippo Glorioso e Carta e Penna, non perdetevelo, e non perdetevi neanche gli appuntamenti pomeridiani, con Rosalia Callea. Mamma mia, come faccio a sbagliare? Come faccio a sbagliare? Se mi senta si arrabbia. E vabbè, intanto mi farò perdonare in qualche maniera prima o poi, non vi preoccupate. Ok, ci risentiamo la prossima settimana. Vi auguro un felice weekend, visto che non ci risentiamo più fino a martedì prossimo, e un buon ascolto.